nostro reportage. Ambiente. L'UE alla prova di COP22. Di Laura Bettini. Il 4 novembre il commissario all'energia europeo, Maros Sefcovic, salutava l'entrata in vigore dell'accordo sul clima di Parigi dello scorso anno. In meno di 12 mesi, 55 paesi, rappresentanti il 55% delle emissioni, avevano ratificato l'intesa. Un processo rapido, sottolineava Sefcovic, che mostra quanto l'intero mondo condivida l'urgenza di combattere il cambiamento climatico. Il che nell'anno più caldo che sia mai stato registrato non deve stupire. Però per contenere il riscaldamento globale well below, quindi ben al di sotto dei 2 gradi centigradi al 2100, come deciso a Parigi, bisogna darci dentro e stabilire le regole, i controlli e i finanziamenti per tutte le azioni da mettere in campo per raggiungere l'obiettivo. Ed è proprio di questo che si discute alla COP22, quindi la 22esima conferenza delle parti, che è in corso a Marrakech. Antonio Navarra presiede il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici, che è tra l'altro anche il centro di riferimento nazionale per l'IPCC, il principale organismo internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici. Il successo rapido della conferenza di Parigi coglie un pochettino tutti di sorpresa, perché il trattato è già entrato in vigore, perché è stato ratificato dalla maggioranza richiesta di paesi e di emissioni, diciamo. Questo vuol dire che adesso bisogna cominciare subito a ragionare sui meccanismi di implementazione. Questo è il percorso che si comincia adesso a Marrakech, ma che non si concluderà ovviamente con questa conferenza, ma avrà bisogno di un ulteriore passaggio. Comunque è importante, perché con questa conferenza si comincia a parlare di azioni, di iniziative, di interventi concreti. Con l'intesa fatta e l'accordo ratificato, un profano si sarebbe aspettato una strada in discesa. Invece Maria Grazia Midulla è a Marrakech per il WWF Italia. Devo dire che percepisco un certo rallentamento. In realtà, per le cose da decidere, la cosa principale da decidere è come convocare la conferenza degli aderenti all'accordo di Parigi, quanto farla durare, perché l'intenzione è quella di coinvolgere più paesi possibile. Alcuni, per esempio la Gran Bretagna, completeranno l'iter entro la fine dell'anno, ognuno ha le sue, diciamo così, lunghiaggini. I paesi che hanno finora ratificato sono 103, quindi sono un numero cospicuo, ma si cerca di avere più paesi possibili coinvolti. D'altro canto, però, nel 2018 è già previsto una scadenza molto molto importante, che è quella del primo dialogo facilitativo sull'adeguatezza degli obiettivi dei singoli, di riduzione delle emissioni dei singoli paesi. E quello è il nodo, perché l'UNEP l'ha ribadito poco prima dell'inizio di Marrakech. Noi oggi, con gli obiettivi attuali, siamo oltre i 3 gradi di aumento medio della temperatura, e con conseguenze veramente disastrose. Proprio così, gli obiettivi che si sono dati i singoli paesi sono complessivamente insufficienti a contenere l'innalzamento della temperatura del pianeta, il che, accanto alla questione del finanziamento delle azioni necessarie a ridurre le emissioni, è uno dei problemi principali. Come non bastasse, sui delegati alla COP22 è piombata l'elezione di Donald Trump, un negazionista dei cambiamenti climatici, con la dichiarata intenzione di traghettare gli Stati Uniti fuori dall'intesa di Parigi e tagliare i programmi di ricerca sul riscaldamento globale. Almeno così ha detto in campagna elettorale. Lo aspettiamo alla prova dei fatti, dice Antonio Navarro. Vedremo. Intanto il trattato è in vigore e per le clausole sostanzialmente nessun paese si può ritirare prima di 4 anni. Una cosa sono le elezioni, una cosa è governare, quindi vedremo le scelte che si faranno. E comunque a Marrakech, dopo il primo shock per gli americani, ora è business as usual, assicura Giovanni Lavia, presidente della Commissione Ambiente del Parlamento Europeo. Imbarazzo c'è stato sino a quando tutti abbiamo avuto i primi incontri con gli americani, che hanno invece mostrato una tendenza a voler continuare il percorso intrapreso, e quindi questo è un primo aspetto positivo. Non c'è uno stop, vedremo successivamente la nuova amministrazione che cosa vorrà fare. E quindi stanno continuando il negoziato sulla base delle istruzioni che avevano e del mandato che avevano. Per Maria Grazia Midulla, comunque, ora è più che mai necessario che l'Unione Europea riprenda il suo ruolo guida nel contrasto al riscaldamento globale. L'Europa dovrà avere di nuovo un ruolo di leadership. La cosa che veramente colpisce chi ha seguito tutti i negoziati da anni è come l'Unione Europea abbia sempre più assunto un ruolo a rimorchio. Anche sulla stessa ratifica dell'accordo di Parigi, a parte alcuni stati come la Francia che hanno ratificato immediatamente, ma gli altri sono andati molto molto lentamente, tant'è che si è dovuta poi creare l'escamotage della ratifica dell'Unione Europea e poi i singoli stati a poco arrivano. Questo è una situazione che non potrà più andare avanti, perché per l'Unione Europea la questione del clima è una delle questioni, degli assi centrali, e lo stesso è anche parte della strategia di sicurezza energetica, quindi non ha nessun senso che si continui ad andare così. È evidente che ci sono tante ragioni, tra cui quella di alcuni stati che dipendono moltissimo dal carbone. Una situazione in cui si ripropone l'eterna frattura est-ovest europeo, ben presente anche in altre sfere di azione dell'Unione. Anche se, secondo Giovanni Lavia, sul clima l'Europa si è molto compattata nell'ultimo anno. Non c'è dubbio che non sia tutta uniforme, abbia problemi, però su questo tema mi sembra che ci sia una convergenza di interessi tra tutti i paesi. Cioè c'è stata un'evoluzione in positivo nel corso dei mesi, nell'ultimo anno, da Parigi in avanti. Questo non c'è dubbio, da Parigi in avanti si è presa consapevolezza del fatto che la lotta al cambiamento climatico deve e dovrà essere una priorità europea. L'Italia è rappresentata dalla delegazione dell'Unione Europea e non singolarmente, poiché non ha ancora ratificato l'intesa di Parigi. Ma saprà fare la sua parte, sostiene Antonio Navarra, che presiede il Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici. L'Italia, che è un pochino in ritardo, perché non ha ancora, però è inserita all'interno del contesto europeo, quindi comunque segue quello che è il percorso, no? No, ma l'Italia diciamo che sta seguendo, non mi sembra in particolare ritardo, sta attivamente partecipe al processo europeo, anzi con ruoli spesso propositivi e importanti, quindi penso che anche noi faremo la nostra parte, siamo pronti ovviamente a partecipare sia ai processi europei che a quelli internazionali, compresi i complessi meccanismi di climate finance, di finanziamento del clima, che servono per far partire le innovazioni tecnologiche per l'adattamento e la mitigazione delle emissioni. In questi primi giorni i delegati e i mediatori hanno lavorato per preparare il terreno ai capi di Stato e di Governo che arriveranno in Marocco la prossima settimana per la stesura del documento finale. E Giovanni Lavia prevede un negoziato duro. Questa settimana secondo me si impiegherà sino alla fine, cioè è stato impiegato in buona parte, ma anche il fine settimana, per definire il quadro complessivo degli argomenti che verranno trattati a livello politico la prossima settimana. Poi la prossima settimana, da lunedì, comincia il gioco più impegnativo per definire il testo finale dell'accordo. In questo testo finale, questa volta, cosa ci dobbiamo quindi aspettare? Sostanzialmente sì. Ci dobbiamo aspettare i controlli e come verranno fatti. Ci dovremo aspettare soprattutto le modalità con le quali si rivedranno temporalmente, con che cadenza periodica, gli impegni alle riduzioni delle emissioni, e infine ci dovranno aspettare gli impegni da parte di tutti i soggetti al finanziamento del Fondo per il sostegno ai paesi in via di sviluppo e le modalità di utilizzazione delle risorse che verranno destinate. Quindi la negoziazione sarà particolarmente dura, immagino, la prossima settimana. Sarà una passeggiata. Diciamo che vedremo poco Marrakesh e passeremo tra le 14 e le 18 ore chiusi in un posto che... I finanziamenti lo sappiamo dall'anno scorso che è un punto dolente. Sì. Gli impegni, la revisione degli impegni che non sono sufficienti a contenere la temperatura, almeno al momento. La revisione degli impegni li dovremo fare subito, la dovremo fare a 5 anni, la dovremmo fare periodicamente ogni 5 anni, e questo bisognerà deciderlo. Tra una settimana sapremo come è andata a finire. Euro Reportage, in collaborazione con Euronet Plus.